Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Dunque, il Movimento 5 Stelle vince non solo a Roma ma anche a Torino, dando un significato nazionale al successo ottenuto dai candidati del Movimento di Beppe Grillo. A Roma Raggi stravince in tutti i quartieri, nel nuovo Consiglio Comunale, dopo Mafia Capitale. Per la prima volta Roma ha un sindaco donna. Questo cambiamento è fondamentale, noi lo dobbiamo al Movimento 5 Stelle, a Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, che hanno avuto la lungimiranza di portare avanti un progetto importante e oggi siamo qui a testimoniarlo. Da sindaco non potrò risolvere tutti i problemi, ascolterò tutti, perché sarò il sindaco di tutti. Sarà un percorso di 5 anni che faremo assieme a tutti i torinesi, chi entusiasta e chi critico. Perché di questa comunità tutti devono sentirsene parte. Primo SMS che leggo mentre andava appunto la sigla. Mandare in onda la Raggi dopo che l'avete diffamata tutta la settimana scorsa con i suoi redditi è per voi un boccone amaro, vero? Scrive un ascoltatore della frangia di ascoltatori che comunque dalla rete, dal popolo della rete, si sentono finalmente affrancati, accreditati di poter liberamente prendersela con quelli che stanno oltre la barricata, con quelli che fanno parte dell'apparato, e in questo momento fa parte dell'apparato chi parla al microfono di una radio. Detto questo, oggi vorrei parlare con le persone che mi ascoltano su quello che è accaduto. L'Italia è indubbiamente cambiata, indubbiamente in maniera drastica, radicale, totale. Tutto quello che era semplicemente sfumato, semplicemente comunque attribuibile a una fase di stanchezza della politica, da una fase di allontanamento tra popolazione, corpo elettorale, cittadini, coloro che posseggono le città e chi dovrebbe rappresentarli, oggi è una realtà radicalmente dimostrabile. Un movimento politico che si è fatto strada lentamente attraverso le istituzioni, oggi a tutti gli effetti si può dire che sia al potere in Italia. Manca soltanto un piccolo passaggio, già leggo sui giornali, Di Maio si prepara per la corsa a Palazzo Chigi. Indubbiamente potrebbe accadere che l'Italia diventi improvvisamente un paese a 5 stelle. Detto questo, come sono cambiati gli italiani? Chi sono le persone che comunque hanno determinato questo cambiamento? È un cambiamento dovuto soltanto sulla protesta, sulla reazione, come molti dicono? Difficile pensarlo. Le lacrime che vedo oggi su Repubblica di Piero Fassino sono assimilabili, se vogliamo attribuire delle secrezioni ad ogni cambiamento, al filino di bava di Forlani al processo Enimont all'inizio degli anni 90. È sintomatico che sta cambiando radicalmente qualcosa. Ora non c'è che chi è attristato, chi è contento, chi è allegro, non vorrei far parte nemmeno dei cori di piazza, della gente che scende in piazza, delle occupazioni dei comuni. Le prese alla Bastiglia hanno avuto sempre una durata corta. Dopo ogni presa alla Bastiglia esiste un momento importante, che è il momento di assestamento e di cambio. Come vi aspettate questo momento di cambio, di assestamento? Quale parte avete avuto in questo cambio assestamento? Siete state fra le persone che in maniera irriducibile hanno pensato che forse valeva la pena di mantenere ridotto della vecchia raffigurazione della politica, perché comunque il nuovo spaventava di fronte a questa ondata di nuovo che non è più rappresentata soltanto da elementi folcloristici, dal popolo della rete, da i troll che ogni giorno vi mandano 7000 sms o messaggi su Twitter per dirti vecchio, venduto, infame, basta, ora di finirla, ti vorremmo prendere, via dicendo. Non sono soltanto questi. Chi ha votato Torino non appartiene sicuramente a questa popolazione. È gente che è inserita nel sistema sociale, nel sistema economico, è gente che ha studiato, non è gente ignorante, non è pressapochismo, non è soltanto populismo. L'Italia ha fatto indubbiamente una scelta, se poi l'abbia fatta per rimessa, per paura, per sfiducia, per spappolamento e dissoluzione della classe politica attuale, questo è qualcosa che non sta a me dirlo, non sta a noi capirlo. Voglio capire però dalle persone che potranno questa mattina chiamarmi assieme ad alcuni osservatori, cosa vi sentite che sia cambiato in questo momento in voi e nel vostro paese. 800 24 00 24, tra un istante. Melog, cronache meridiane. Parliamo di come questa mattina gli italiani, svegliandosi, molti loro avendo osservato la maratona sui telegiornali, sui canali satellitari, maratona mentana, la più divertente di tutti, l'hashtag più seguito su Twitter, oppure questa mattina andando a guardare, come dice Mario Secchi nel suo articolo di osservazione interessante del fenomeno 5 Stelle, caffè al vetro e occhiata al Messaggero, quindi si è resi conto più o meno che è cambiato qualcosa. Questa mattina volevo sentire dalle persone che mi chiamano cosa sentono che sia cambiato. Si sentono partecipi e parte integrante e attiva di questo cambiamento, o lo subiscono, ne hanno paura, lo temono, che ci sarà qualcosa che cambia? Sicuramente, è indubbio che naturalmente adesso stare all'opposizione ci si trova in mano la carne palpitante e scottante della gestione delle grandi città, è un altro discorso, ma nessuno spero veramente di vedere le persone cadere improvvisamente o non sapersi districare dai problemi. Tutti speriamo che in fondo il paese vada meglio, potrebbe essere un'alternativa, però voi da questo punto di vista, questa mattina che vi siete svegliati, come la vedete? Vediamo di fare un punto innanzitutto su quello che è successo. Due ospiti che mi permetteranno, integrandosi, di capire un po' meglio tutte le dinamiche per cui si è arrivato a questo cambiamento. L'uno è Federico Mello. Federico Mello, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gianluca, buongiorno agli ascoltatori. È un giornalista, un blogger, quindi fa parte, diciamo, di quell'osservatorio privilegiato attraverso cui si è sicuramente accreditato il successo di quello che è accaduto. Non dimenticate che la maggior parte dei quotidiani nazionali, anzi la totalità dei quotidiani nazionali, aveva delle posizioni, diciamo, molto critiche, di chiara avversione al Movimento 5 Stelle. Questo non è servito a niente. In televisione non è che le candidate che hanno vinto sia a Torino che a Roma abbiano dato delle dimostrazioni di capacità televisiva estrema, eppure hanno vinto, quindi i giornali comunque non servono più a incidere sull'espressione del voto, la televisione un pochino, forse ancora, la rete sicuramente è servita molto. Ricordo che Federico Mello è autore di due libri sul Movimento 5 Stelle, Il lato oscuro delle stelle del 2013, un altro blog È possibile perché non funziona la democrazia digitale, imprimato 2014. Giovedì esce il suo nuovo libro, Le confessioni di un nerd romantico, imprimato editore, di cui parleremo in una prossima puntata. Poi l'altro ospite è il professor Edoardo Novelli. Edoardo Novelli, buongiorno. Buongiorno a voi. Insegna comunicazione politica presso l'Università Roma 3, ha scritto vari saggi sul rapporto tra TV e politica, è responsabile di un'iniziativa di analisi della comunicazione elettorale per il sito ilgaladellapolitica.it. Questo mi interessa, comincio subito con lei, professor Novelli. Io mi sono guardato un attimo quello che avete scritto nel Gala della Politica, diciamo dopo le prime votazioni, prima ancora del ballottaggio, e sembrava abbastanza chiaro comunque la comunicazione politica che hanno fatto i candidati del Movimento 5 Stelle già dava dei segni di essere efficace. Vediamo di analizzarla nello specifico. Abbiamo detto i grandi giornali li avevano tutti contro, la Stampa di Torino, Repubblica, il Corriere della Sera, ma persino il Fatto Quotidiano, che era il giornale più vicino al Movimento 5 Stelle, aveva diciamo negli ultimi giorni accelerato sulla questione delle consulenze della RAI, eppure hanno vinto lo stesso. Come mai? Ma questo, ci sono ragioni sicuramente molto profonde. In una sintesi si potrebbe dire che hanno saputo incarnare un'esigenza di novità, di rottura, di discontinuità, che in alcune città era chiaramente molto più evidente, molto più marcata, tipo Roma, rispetto ad altri partiti. E questo soprattutto anche con la loro comunicazione. Teniamo presente che l'idea di rottura, di discontinuità, di cambiamento, di rottamazione erano le parole con le quali si è presentato sulla ribalta politica nazionale Matteo Renzi qualche anno fa, 2 anni fa, e ha avuto questa scalata, questa al potere sia istituzionale sia all'interno del PD, quindi segno che c'era voglia e esigenza nel paese di un cambiamento, e che però probabilmente questo gli è stata sottratta questo terreno, questa palma, ed è stato governato più abilmente e più in maniera più radicale dai 5 Stelle. C'è, in alcuni critici possono dire che chi invoca la rottamazione arriverà presto uno più rottamatore di lui, c'è chi si presenta come nuovo. Tutti prendiamo la Bastiglia con i forconi, però la ghigliottina è anche per chi ha saltato la Bastiglia alla fine. Quella è esattamente una cosa. Se noi ci vogliamo però limitare alla comunicazione, beh, vediamo come io dovessi dire una cosa nella giuria. Noi abbiamo fatto questa giuria di giuria di esperti, dove ci sono esperti di pubblicità, esperti di comunicazione, giornalisti, i rappresentanti di alcuni dei principali centri di studi sulla comunicazione politica delle varie università italiane. Però quello che emerge è perché sia ben chiaro, non esiste una comunicazione che va bene per tutti i candidati, ovviamente, deve essere parametrata, deve essere basata sulla sua storia, sulla sua storia politica, sulla sua storia personale, eccetera. Le due candidate outsider, ricordiamoci che erano stati fortemente criticati i 5 Stelle, soprattutto a Roma, perché gli si era detto o candidate Di Battista, Di Maio, qualcuno conosciuto, o in epoca di personalizzazione della politica, se candidati ai due illustri sconosciuti non arriverete da nessuna parte. E questa cosa loro l'hanno pagata a Milano. Oggi domandano tutti la frase di Fassino quando sì, disse a Fassino, vieni te, terzi. Fammi oggi cioè, è veramente una lama di ghigliottina riascoltare quella frase, una sì, sottovalutazione lui disse anche una totale. Frase, quando impedirono lui segretario del PD, non accettarono la candidatura alle primarie di Beppe Grillo, gli dissero se proprio vuoi fatti tu un tuo partito, quindi insomma si può dire che come le profezie sono drammatiche. Bisogna andarci cauti. Sì, esatto. Sì, c'è anche un'altra cosa, mi scusi Novelli. Sì, non mi sembra che la comunicazione 5 Stelle sia costata poi un patrimonio così esagerato normalmente costano le quotazioni, è costata 4 soldi. Sì, dunque loro rispetto sono nuovi a quello che si spende normalmente. Assolutamente. Se rispetto alla campagna di Marchini e anche rispetto alla Meloni che è arrivata dopo, ma comunque ha saturato Roma di manifesti, Marchini era meglio di se li giocava al casinò quei soldi, perché ha anche dichiarato cifre enormi. Sì, 800 milioni mi sembra abbia dichiarato. Però il fatto che la comunicazione, innanzitutto le due candidate, il fatto che siano sconosciute, poca esperienza politica, poca storia politica alle spalle, che per alcuni potrebbe essere un elemento, se vogliamo, critico, no? Ma evidentemente per loro è un elemento, per l'elettorato, per quello che voleva una gran parte di elettori, è sicuramente un requisito che segna una discontinuità, cioè coerente con la loro proposta politica. Allora, fermi solo un secondo, Novelli. Solo un secondo, Novelli. Federico Mello, velocemente, attribuisci a una strategia attenta, capillare e geniale a questo punto quello che è accaduto, o una grande botta di culo, perché in questo momento erano proprio le persone giuste al momento giusto che le persone volevano votare? Allora, io sono d'accordo con quanto dice il professore. Aggiungerei che dal punto di vista comunicativo, ma anche politico, i 5 Stelle hanno un vantaggio strutturale. E adesso in una società ipermediatica come quella che viviamo, sicuramente ha molta importanza la funzione drammaturgica di un candidato, no? Cioè il fatto di portare con sé una storia, e sicuramente queste due donne, giovani, inesperte, fuori dai giochi, fuori dalle logiche dei partiti, portavano con sé una storia vincente. Quindi storytelling con cui ci hanno sbombardato gli ultimi tre anni, in realtà l'ha messo in pratica loro. Gli altri non c'hanno niente da raccontare. Esattamente, su questo punto vorrei dire, Gianluca, che lo storytelling ormai è una, come dire, dinamica anche vecchia. Se vuoi, fu il primo Obama nel 2008, no? Con la storia dell'hope, della speranza a farlo. Poi secondo me, da osservatore, è successa una cosa curiosa, ovvero che si è capito proprio da un punto di vista di marketing, con una società che diventava ancora più mediatica, che un messaggio negativo aveva un vantaggio strutturale rispetto a un messaggio positivo. E questo per tre ragioni che dico al volo. Uno, un messaggio negativo accomuna anche persone che vengono da prospettive diverse, non deve trovare una sintesi, no? Se contro qualcosa e questa contrarietà unisce. La seconda cosa è che un messaggio contrario come dire, può dare dei risultati concreti e immediati. Cioè, se io faccio una campagna di boicottaggio, di contrarietà a qualcosa, posso raggiungere un risultato immediatamente. I risultati positivi sono sempre più ondivaghi, sono sempre più da scrutinare, poi da vedere nel merito. E la seconda cosa è che i diversi rifiuti si equalizzano indipendentemente dalle motivazioni che li fanno nascere. E secondo me questi elementi nella candidatura della Raggi, per esempio, sono stati evidenti. Cioè, stando a Roma, l'opinione diversa, da prospettive politiche diverse, da storie diverse, si univa contro il rifiuto di quello che c'era stato. È chiaro che, come ha detto ieri la stessa Raggi, ieri si è svolta una pagina di storia, cambia tutto, e adesso la prova di questi campioni della controdemocrazia, come è stata definita dai politologi, si troveranno loro stessi a essere potere, no? E questa cosa è effettivamente un cambio rilevante, e cambia soprattutto i propri supporter, gli amici, gli entusiasti, quelli che mi scrivono il professorino pagato da Radio 24 per darci le sue opinioni, sappiano che è facile avere il consenso finché si resta all'opposizione. Quando bisogna cominciare a tagliare, a gestire, a dire di no, a mediare, certo, comincia il vero esercizio del potere e cambia tutto. Sentiamo qualche ascoltatore. Pier Francesco da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli invitati. Un'analisi che vorrei fare e condividere con tutti voi, e che non avete mai in questi giorni, in questi momenti analizzato, è che Giachetti, quando si è presentato con una pletora di liste. Lei chi ha votato, Pier Francesco? Io ho votato il 5 Stelle, anche se non sono di estrazione 5 Stelle, ma ho votato 5 Stelle per di che estrazione qui, è? Per capire, di che estrazione era no, prima? No, è giustissimo. Io ero di centrodestra, ero del centrodestra. Quindi diciamo sono tutta la destra che si è vaporizzata, come si è vaporizzato il PD, ha optato per 5 Stelle. Come sì, perché diciamo, la scelta che ha fatto Berlusconi di in qualche modo di esautorare la Meloni ha pagato caro il prezzo per quanto riguarda la campagna, e tanto è vero anche Berlusconi a Milano, se fate l'analisi, che doveva essere rappresentata il suo cavò, il gold mine, anche lì è stato vaporizzato il Berlusconi, perché Berlusconi fallisce al nord e fallisce al centro. Lei ha votato Meloni primo turno e Raggi al ballottaggio. Esattamente. Quindi diciamo, per lei la Raggi tutto sommato è molto più vicina alla Meloni rispetto all'altro candidato, quindi non è per questo, lo sa per quale motivo? È perché le liste che appoggiano Giachetti, che cosa vuol dire? Che nel momento in cui Giachetti avesse vinto avrebbe dovuto soddisfare chiaramente le richieste di coloro che avevano supportato la lista, e saremmo ricaduti esattamente nella suddivisione della partitocrazia precedente. Anche la Raggi adesso sarà un compito abbastanza difficile, che gli auguriamo di riuscire bene a portare avanti. Dovrà soddisfare tutti quelli come lei che in realtà si aspettavano la Meloni, e quindi anche con voi avrà dei problemi, diciamo, comunque di mediazione. Però è così, è indubbio. Se il vecchio si dissolve, si rifanno scelte, e le scelte sono naturalmente mediate. Uno a qualcosa rinuncia perché pensa quella sia la via migliore. Solo Serafino, buongiorno. Serafino. Buongiorno a lei, buongiorno per la trasmissione. Ascolti, sì. Niente, io dicevo, ci ricordiamo la vecchia Lega che fece il 35-40% al nord, mandava all'aria tutto il mondo, faceva chissà che cosa con la politica, e poi oggi sappiamo che punti sono, a 5 punti forse. Lo stesso penso che sia il partito del 5 Stelle. Indipendentemente che ha un vantaggio, che c'è un po' su tutta Italia, mentre la Lega era verso solo il nord, e perciò alla fine non cambierà ancora niente, come non è cambiato fino ad oggi. Beh, qualcosa cambierà, e un'altra indubbiamente. Cosa più importante sarebbe convincere i politici, convincere la popolazione a votare, allora forse ci sarà un vero cambiamento. Ma intanto che la gente, invece che votare, se ne sta a casa perché tanto non ne vale la pena, non cambierà mai niente. Ma indubbiamente quello che dice lei è vero, molti hanno fatto questo parallelismo con la Lega, col cambiamento che la Lega, che molti preoccupava, molti esaltava, poi si è visto che alla fine oggi è molto relativo il suo peso. Quello che dice lei però è altrettanto giusto, in realtà hanno votato pochi italiani, una percentuale bassa di italiani, quelli che hanno votato una scelta ben precisa, gli altri probabilmente manco ci staranno a ascoltare stamattina, per loro è indifferente che cambi o non cambi qualcosa, perché pensano alla loro vita, procederà comunque indifferentemente uguale, sia che ci sia una forza politica o l'altra. Ci fermiamo un istante, tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. JP Morgan Asset Management vi presenta Melog. Cronache meridiane. .800 24 0024. Come è cambiata l'Italia? Come vi sentite voi responsabili, autori del cambiamento dell'Italia? Come voi, in realtà, al contrario, potete temere che il mondo non sarà mai più come prima. Vedo grandi manifestazioni di allegria, di euforia, degli sms, anche di rabbia, di odio. Nicoletti fa il serio, che cacchio dici? La rage di qualcosa a qualcuno è strano al movimento? Ma ti sei bevuto il cervelletto o sei anche tu venduto? In che analisi sballata ti stai avventurando? Sembri quasi quel viscido di Orfini, scrive Fabio. Non ho detto nulla di strano, a parte che la Raggi la prima ha detto sono il sindaco di tutti, quindi dovrà comunque rendere conto a tutti di tutto. Un elettore della Meloni dice ho votato per la Raggi, ho detto all'elettore della Meloni, quindi vi aspetterete che la Raggi in qualche maniera parli anche con voi, siate interlocutori e rappresenti anche voi. Mi sembra una cosa molto logica. Abbiate il piacere della dialettica, del confronto, non pensate che in questo momento sia il momento di asfaltare tutto, come è stato detto prima al professor Novelli, ricordate, per ogni asfaltatore, visto siamo anche un popolo di asfaltatori, oltre che di santi, eroi e navigatori, se ne trova sempre un altro che ha il catrame più, il bitume più rovente in mano e maggior capacità nell'asfaltare, quindi occhio agli asfaltatori. Sentiamo qualche ascoltatore ancora, poi ritorno ai miei esperti. Antonella da Brescia, buongiorno, siate velocissimi. Buongiorno, sì. Buongiorno, ascolti signor Nicoletti, io diciamo di questo esito elettorale posso dirmi anche soddisfatta, in quanto questa Raggi è una donna e lo stesso posso dire per quella di Torino. Hanno anche vinto due donne giovani, questo è un bel segnale. È una bella cosa. Nessun anche partito l'avrebbe mai candidato, due ragazze sia di destra che di sinistra. Però, io sono abbastanza delusa dal discorso che lei ha fatto questa mattina. Io personalmente? Ah, la Raggi. Io l'ho sentito, cioè appena eletta, insomma, davanti ai giornalisti. Ieri sera l'ha fatto, sì. Che ieri sera, sì, poi l'ho rivisto stamattina. Ha detto che questo cambiamento lo deve tutto l'Italia, lo deve a Beppe Grillo e a Casaleggio. Queste due persone hanno invitato, però è nel DNA del movimento. Io spero che questa signora usi la sua testa e non quella né dei blog né di questi due, perché ricordiamoci come è stata asfaltata la candidata 5 Stelle donna a Milano, ricordiamoci di questo, perché la stampa ha fatto presa a dimenticarsene. Ma lì è stato fatto una cosa bruttissima questo però, come vede, come l'ascoltatore mi scrive, solo il movimento. Il movimento è il luogo spirituale di coesione, il Movimento 5 Stelle, come il blog di Beppe Grillo è il Sancta Sanctorum. Io sto guardando stamattina, forse dovranno trovare qualcosa di diverso. Federico Mello, scusami, su questo rifarsi comunque, non dico ai padri fondatori, ma agli eredi dinastici dei padri fondatori, quando si fa il discorso di investitura al sindaco di Roma, giustamente la nostra ascoltatrice l'ha osservato e sottolineato, non potrà andare avanti sempre così. La Raggi, non dimentichiamo che ha firmato un contratto con la Casaleggio, con l'azienda Casaleggio, che prevede una penale molto salata, insomma, di 150.000 euro se lei dovesse deviare dal corso delle regole 5 Stelle, regole che poi in gran parte non sono neanche scritte, quindi insomma è abbastanza umorale anche come dimensione, e dall'altra parte non ci dimentichiamo che è espressione piena, insomma, dell'ortodossia grillina la Raggi, che è stata scelta dal compianto Gianroberto Casaleggio, è stata appoggiata dalle figure più preeminenti del movimento, e in realtà in questo ci sarà una contraddizione difficile un po' da risolvere. Ecco, questo sarà uno dei punti. Su Emello, ti vado più sulla domanda, sarà uno dei punti comunque da chiarire. Tutti l'hanno votata, tutti hanno protestato, tutti sono felici oggi di vedere la gogna con i rappresentanti storici del potere tirargli i pomodori in faccia, però questo è un punto fondamentale. Muore il padre fondatore spirituale di un movimento, emerge subito il figlio, che prima nessuno sapeva chi fosse, quindi è una procedura di cambio dinastico del potere, di potere si eredita per via dinastica. Il sindaco di Roma, che non è proprio una cosina da sottovalutare, dice subito: ringrazio questo ragazzo per la vittoria che ha avuto. Tu mi confermi il fatto che c'è un contratto dove deve pagare una penale se quel ragazzo, che non a caso ieri era a Roma, in qualche maniera lei si dimentica di consultarlo in queste cose. Ecco, come la metteranno nel DNA che dovrà sicuramente mutare il Movimento 5 Stelle questa piccola e non trascurabile vicenda? Gli italiani ci passeranno sopra, non gli interesserà? Passato il momento dell'euforia per vedere finalmente in mutande chi prima regnava, come se la metteranno con questo particolare non proprio trascurabile? Ma secondo me più che un discorso di opinione sarà un discorso proprio di amministrazione in qualche maniera. Cioè De Magistris a Napoli è riuscito a coniugare ribellismo e governo, ma proprio perché è un po' anche un atomo in qualche maniera, non ha un partito di riferimento al quale rendere conto. È una scheggia impazzita, hai visto ieri come correva per strada? Esattamente, e lui è perfettamente riuscito in questo connubio. La Raggi avrà questo problema che non, da una parte, se dovesse scendere a patti con la realtà e quindi affrontare poi le mediazioni, le lungaggini, anche se si vuole le delusioni, le mediazioni a ribasso della politica, questo potrebbe sicuramente creare dei problemi con Milano, come è successo a Parma per esempio, no? Che era la Stalingrado del Movimento 5 Stelle. Al contrario, se mantenesse invece un approccio completamente ortodosso e quindi dal mio punto di vista anche molto propagandistico, molto slegato dalla realtà, e in quel momento si dovrebbe invece scontrare con i problemi di Roma, che sono numerosi. Io temo che sia un nodo che arriva al pettine, e davvero, ripeto, cito la frase di ieri della Raggi: è cambiata la storia, è cambiato qualcosa da ieri, e ora dovremo vedere cosa succede. Ma già in queste piccole vicende, quando si immaginava ormai che la Raggi fosse già sindaco, no? Negli ultimi giorni sia la polemica per la sua per una consulenza fatta con un ente pubblico, sia per alcune dichiarazioni di Lo Cicero, che è uno sportivo, era stato indicato come potenziale assessore. Sì, che anche è l'eroe di un programma televisivo in cui fa Giardini da incubo, quindi è un personaggio molto conosciuto. Quella che Christian Salmon ha chiamato la cerimonia cannibale che si sviluppa contro il potere, no? Che ha detto i Focetti smettono il paradenti, io non me lo metto. Esattamente, quindi già in questa piccolissima cosa si è verificata questa contraddizione, e i problemi della giunta che la Raggi aveva promesso di annunciare precedentemente al primo turno, poi ha detto che l'avrebbe annunciato il venerdì prima del ballottaggio e che poi non sono stati annunciati, secondo me è il primo nodo che riguarda proprio il rapporto con la Casaleggio, che è garanzia di ortodossia. Noi ci aspettavamo che ieri sera la giunta fosse perlomeno espressa, perché ormai avevano vinto. Gianluca, ma fammi dire, ma se anche un assessore che è un professionista, una persona in gamba, si mette in quel gioco, a quale gioco si mette? Al gioco della Raggi e della Giunta di Roma, o al gioco di Casaleggio e del Movimento Nazionale, che si gioca la sua partita e che anche utilizza mezzi come la gogna mediatica, come si vuole accuse che riguardano anche poi regole non scritte, no? Abbiamo visto che insomma il fondamento della civiltà, se si vuole, è le regole scritte. Il Movimento regole scritte non ne ha, e quindi questo si presta facilmente ad abusi ed arbitri. Voglio sentire Novelli, così facciamo parlare anche per lui. Novelli, dal punto di vista della comunicazione, come sarà gestita questa indubbia difficoltà poi di mettere insieme l'entusiasmo di chi poi vorrà comunque avere dei risultati, e questa sorta di gestione che Ma al di là di ogni lettura, non lo dico scevro da ogni partigianeria possibile e immaginabile. È un po' criptico immaginare un sindaco che prende ordini da un ragazzo per un contratto con una penale di anche parecchi soldi, che ancora non ha detto la giunta, che gestisce anche la comunicazione in questa maniera tipicamente da 5 Stelle, mediata, ferma, a senso unico, soltanto quando vogliamo noi. È un po' difficile, o riusciranno a vincere anche questa battaglia e imporranno il loro metodo? Ma è assolutamente un'incognita questa, ed è secondo me forse un'incognita più grandi che c'era sui 5 Stelle. Questa cosa del contratto è assolutamente anomalo, qualcuno sostiene addirittura che potrebbe avere degli aspetti di illiceità, ma quello che c'è da notare è che un sindaco è molto più forte rispetto a un parlamentare, nel senso che se il sindaco riesce ad avere dalla sua parte i cittadini, l'opinione pubblica, grazie al modo in cui governa, ai provvedimenti che prende, questo gli dà una forza e un potere anche nei confronti di un eventuale direttorio anche all'interno del suo partito, rispetto invece a un singolo parlamentare. Noi, cioè, se amministra bene, Noelli, se amministra bene, nessuno si porrà più domande, chi ci sia dietro, se si consulta con gli altri, se dà delle risposte concrete ai cittadini è di secondaria importanza poi alla fine che non parli con i giornalisti o che dica le cose soltanto come vuole, quando vuole, in che maniera vuole, che comunque si consulti sempre con il giovane Casaleggio per ogni scelta. Fermo un istante, riflettiamo su questo, riprendiamo fra un minuto. Melog, cronache meridiane. Devo subito fare una domanda a Federico Mello, perché continua a darmi del venduto, dice, perché non fai altro che denigrare il Movimento 5 Stelle, quando puoi parlarne in termini non entusiastici significa denigrare. Comunque dice, perché fai dire una cosa non corretta al tuo ospite? Le regole del Movimento 5 Stelle sono scritte, perché non vi prendete la briga di andarvele a leggere? I cittadini hanno visto come i giornalisti hanno cercato e cercano di denigrare il Movimento 5 Stelle. Io sto parlando in termini analitici, non sto denigrando nessuno. Mello, dove sono scritte le regole che hai detto che non sono scritte, per rispondere al nostro ascoltatore? Mi ricorda una cosa che diceva Umberto Eco, che dopo che lui disse che sul web era pieno di imbecilli, racconta Eco che era partito un dibattito sul fatto che lui fosse Nobel o meno, no? E diceva, si continuava a discutere questa cosa e nessuno si era preso la briga di andare a vedere su Wikipedia se fosse Nobel o meno, no? Mi sembra che sulle regole dei 5 Stelle funzioni la stessa cosa, perché di fatto esiste un non statuto, esiste un regolamento firmato dai parlamentari, ma non esistono poi regole precise che disciplinano vicende più particolari. L'avviso di garanzia a Pizzarotti è un esempio, non c'era qualcosa che indicava se nel caso di un avviso di garanzia un deputato si dovesse dimettere o no, non c'erano questioni che riguardavano, che spiegano se per esempio un parlamentare si esprime diversamente dal gruppo, o se per esempio un parlamentare o un esponente può andare in televisione senza l'avallo di Casalino, che era insomma colui che coordina la comunicazione 5 Stelle, o meno. Cioè, quindi questo secondo me è un nodo importante dei 5 Stelle. Si continua a dire le regole ci sono poche ma vanno rispettate, severe ma giuste, ma secondo me quelle regole non ci sono, o almeno sono così vaghe e così specifiche, insomma, rispetto ad aspetti particolari della condotta chiesta a un 5 Stelle, per la quale rimane un margine di arbitrio molto largo, e quell'arbitrio tra l'altro è un arbitrio senza appello, l'arbitrio del blog, che, come dire, il blog rappresenta la segreteria di partito, il comitato centrale, non emendabile, e chi ha le password può essere considerato un po' insomma il capo del politburo, no? Quindi per esempio non ci sono regole su come contendersi queste password, o su come garantire a un imputato, fra virgolette, di un comportamento scorretto come può essere Pizzarotti, come garantire la sua controversione sull'organo di partito, ovvero sul blog. Quindi in realtà secondo me le regole non ci sono, e spesso i focosi militanti 5 Stelle forse non se ne vanno neanche a cercare su Google, ecco, ho questo dubbio, compreso magari l'ascoltatore. Però come ci ha detto adesso Novelli, sono discussioni che ci facciamo fra noi come se fossimo un club degli scacchi che discute su temi astratti. Io vedo dal tono le persone che mi stanno scrivendo in questo momento. Quello che stiamo dicendo sono lecite riflessioni che è umano e civile qualcuno faccia, vengono considerati degli attacchi gratuiti, del gettare fango. Quindi speriamo e siamo felici se questo accade, che governino bene, che facciano contenti i loro elettori. Nessuno si porrà mai il problema poi su quello che è il sancta sanctorum del pensiero 5 Stelle, il blog di chi ci sia dietro e via dicendo. Antonio, provincia di Torino, buongiorno. Antonio. Buongiorno. Senta, volevo fare una considerazione forse un po' amara, ma comunque è questa la considerazione. Il successo di 5 Stelle un po' dappertutto, eccetera, forse è basato sulla sempiterna speranza / illusione che il nuovo sconosciuto sia meglio dell'attuale. Penso che sia così. Comunque, se il sindaco di Roma vuole veramente mettere mano e rivoltare completamente come un calzino la città di Roma, dovrà rischiare molto. Grazie. Grazie, è chiaro. Massimo, provincia di Roma. Ecco, Massimo. Buongiorno. Allora, senta, io credo che le riflessioni che state facendo sull'indipendenza dei rappresentanti 5 Stelle e quant'altro siano già anche passato, perché siamo in una fase nuova. Hanno frenato i 5 Stelle queste considerazioni finora, ma poiché la vecchia politica continua a non rispondere alle istanze delle persone, che sono quelle di sentirsi oppressi dalle banche, dalla burocrazia, questa politica vecchia non può rispondere, perché in parte ne è emanazione di questi interessi. E in parte perché obiettivamente è difficile fare percorsi al di fuori da quelle istituzioni. Ecco, quindi questa fase qui è stata superata, ha frenato i 5 Stelle in una prima fase, ma dopo alcuni anni, vedendo che non c'è risposta attraverso gli strumenti politici, i partiti politici tradizionali. Lei parla da elettore, naturalmente. Scusi, ma lei parla da elettore, dice noi elettore alla fine ce ne importa abbastanza relativamente, purché ci sia un'alternativa rispetto a quello di cui non ne possiamo più. È finora, ma è morto anche Renzi. Anche Renzi sta dimostrando di non poter dare la risposta che si richiede. Si chiede di uscire, di cambiare paradigma, ma questa politica non può che fare delle trasformazioni all'interno degli istituti bancari, degli interessi circoscritti. Sì, ma adesso non l'allarghi, lo stringa, scusi, il discorso è allora, questo. Mi dica se la sintesi mia era giusta. Dice, purché ci sia un cambiamento, siamo anche disposti, noi elettori, a passare sopra al fatto di questi aspetti ancora da chiarire, che non sono molto sicuri sulla gestione, la gestione del partito, le regole scritte, il blog, tutte le cose che siamo già detti. Sentiamo Novelli. Se, è quello che dice Novelli, dice tutti gli altri partiti che hanno fior di statuti, congressi, tutti gli organigrammi palesi, comunque sia, non hanno dato prove di affidabilità, sicurezza, soprattutto di trasparenza, quindi buttiamoci su qualcosa che comunque ci dia una soluzione. Novelli, questo è il punto, una battuta, sì, perché siamo in sigla. Sì, no, dicevo anche un'altra cosa, dicevo che comunque nel momento in cui la Raggi riuscirà a portarsi dalla parte dei cittadini, avrà anche nei confronti dello stesso Movimento 5 Stelle una maggiore autonomia rispetto a quella che non hanno i singoli parlamentari, perché ovviamente potrà godere di un consenso popolare che la rafforza molto anche nei confronti del stesso Movimento 5 Stelle. Questo comunque è verissimo, che la gente ha accettato un po' un salto nel vuoto, molti di loro. Quindi quanto più la Raggi riuscirà a soddisfare le attese, le richieste di chi l'ha votata, tanto più avrà anche lei la possibilità di fare un cammino verso una maggiore chiarezza anche di punti di riferimento. Mi sembra chiaro. La sigla ci chiude, ma questo è un argomento che sicuramente ci appassionerà anche nei mesi a venire, ne sono sicuro. Alla prossima.